giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Chiusi i confini ungheresi, dove questa mattina ci sono stati scontri, li riapre la Croazia. I rifugiati potranno passare di là. Nuovo stop per i treni da Salisburgo verso la Germania. Siria parla Assad. Non risolverete il problema dei profughi finché armerete i terroristi, dice all'Occidente. Iniziano i raid dell'Australia sul paese, a breve quelli francesi. Roma, porto franco degli appalti, scrive l'autorità anticorruzione nella sua relazione sulla capitale. L'87% ha assegnato senza gara pubblica. Tra poco ne parleremo col presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. Renzi vorrebbe l'approdo della riforma costituzionale direttamente in aula al Senato. Resta alto lo scontro con la minoranza, si può arrivare ad un testo condiviso, dice Finocchiaro. L'OCSE migliora le previsioni sull'Italia, crescerà dello 0,7%. Il presidente del Consiglio aveva parlato di un più 0,9%. L'agenzia di rating Standard & Poor's taglia il giudizio sul Giappone. Serata tra pallacanestro e calcio, con l'Italbasket in campo contro la Lituania e la Roma contro il Barcellona. La Juventus intanto si gode il day after della vittoria contro il Manchester City. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che sta succedendo e che succede in Italia e nel mondo. Iniziamo tornando al confine tra Serbia e Ungheria, dove ci sono stati nuovi arresti di migranti e profughi che cercavano di entrare dal confine ungherese, appunto. Ma c'è una svolta, è quella della Croazia, che ha deciso di aprire i confini e farli passare di là. Sentiamo. Aprite, aprite quella porta, gridano esasperati i profughi che cercano di abbattere il filo spinato al confine fra Ungheria e Serbia ad Orgos. Hanno lanciato pietre contro i poliziotti stamattina, la tensione è molto alta. Altri, almeno 150, hanno tentato invece di aggirare il blocco ungherese passando in Croazia. Zagabria ha detto che lascerà passare i migranti che saranno trasferiti nei centri di accoglienza, ma contemporaneamente ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ma l'onda di persone che si riversa sulla rotta balcanica non è destinata ad esaurirsi. Stamattina la Guardia Costiera greca ha annunciato di aver fermato 773 migranti che cercavano di raggiungere isole dell'Egeo orientale salpando dalla vicina Turchia. Sul fronte diplomatico, il premier slovacco Robert Fico ha definito la proposta dei tagli alle sovvenzioni europee per i paesi che rifiutano le quote degli immigrati un imbarazzante tentativo di ricatto. Bratislava ha ribadito di essere contraria alla redistribuzione dei migranti in base a quote obbligatorie. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di tutto questo torneremo a parlare più avanti, ci collegheremo con Monaco di Baviera, che è stato un po' il centro nevralgico dell'arrivo dei profughi in Germania nelle ultime settimane, cercheremo di capire com'è la situazione. Di profughi intanto ha parlato anche il presidente siriano Bashar al-Assad in un'intervista ad una TV russa, si è rivolto all'Occidente, ha detto: non risolverete il problema finché non la smetterete di armare i terroristi. Oggi si registrano tra l'altro anche i primi raid australiani nel paese, mentre la Francia ha fatto sapere che inizierà nelle prossime settimane. Siamo in diretta con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti voi. Una tua analisi su quello che sta succedendo e sulle parole di Assad. Ma l'intervista di Assad mette in evidenza tutte le contraddizioni che ha avuto l'Occidente, il mondo arabo musulmano in questi ultimi 4 anni. I profughi, lo sappiamo, ne ha creati anche lui e Ayosa, ma soprattutto ne ha creati l'avanzata del califfato, che ha origine in Iraq, non dimentichiamolo mai, come se l'Iraq fosse un pezzo staccato, ma in realtà l'ISIS, la grande mossa strategica, l'ha fatta quando ha unito i due campi di battaglia, quello iracheno e quello siriano. È così che si è costituito il sedicente stato islamico. Ora, da fronte a questa ondata di profughi, è evidente che l'Europa deve andare a guardare le radici, l'Europa e gli Stati Uniti con tutti i loro alleati, e cercare in qualche modo una soluzione per la guerra in Siria. Più dirlo è più certamente più facile che farlo, ma non si può farlo senza tutte le potenze implicate nella regione, dalle monarchie del Golfo che hanno abbondantemente finanziato i gruppi jihadisti, alla Turchia che ha fatto lo stesso e ospita 2 milioni di profughi, alla Russia e all'Iran che sono impegnati nel sostegno a Bashar al-Assad. E grazie Alberto Negri per questa analisi della situazione, delle parole di Bashar al-Assad, il presidente siriano, che oggi, come avete sentito, ha parlato anche di profughi. La politica ci porta su due temi che restano al centro. Il primo è quello delle riforme costituzionali e poi c'è naturalmente anche la legge di stabilità. Ci arriveremo tra un attimo. Intanto appunto parliamo di riforme e il tema è quello dell'elezione diretta dei nuovi senatori, che saranno 100, usciranno dalla riforma costituzionale. È su questo che si sta concentrando la battaglia all'interno e soprattutto all'interno del Partito Democratico. Il punto di stamattina con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, parliamo dell'eleggibilità o la non eleggibilità dei nuovi senatori, proprio come hai detto tu, Simone, no? Dopo lo strappo della minoranza PD è attesa per la conferenza dei capigruppo sulla riforma costituzionale all'esame del Senato. Il governo chiede di andare subito in aula per evitare altri strappi anche all'interno dello stesso partito del Premier. Per il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Anna Finocchiaro del PD, si possono portare a termine le riforme dopo 30 anni e si può arrivare a un testo ampiamente condiviso nel partito e nell'aula, ma è forte l'irritazione del presidente di Palazzo Madama Pietro Grasso, che aveva detto di voler decidere lui sull'ammissibilità degli emendamenti. E si parla proprio dell'articolo 2. Per il governo l'articolo 2, quello sul Senato non elettivo, non è emendabile perché si è in terza lettura. Grasso invece ha sempre invitato a trovare un accordo politico e a non cercare di risolvere per via di regolamento una questione che appunto è politica. Una presa di posizione che era ritenuta sospetta da Palazzo Chigi, perché proprio veniva considerata un'apertura alle ipotesi di modifiche sul nodo della legge. C'è poi la questione del nuovo centrodestra. Stamattina il capogruppo Renato Schifani ha smentito Gaetano Quagliariello: il voto sulle riforme non è collegato alla modifica dell'Italicum chiesta dal nuovo centrodestra, che appunto vuole un premio di coalizione e non di lista. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. L'altro fronte che insieme politico ed economico si diceva è quello del lavoro sulla legge di stabilità. L'andamento della discussione sulle riforme e quello sulla manovra, per una serie di incastri politici e parlamentari, in realtà non è disgiunto. Il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. E sì, temi che non sono disgiunti. Basti pensare che Palazzo Chigi punta ad approvare il passaggio delle riforme al Senato entro il 15 ottobre per dare poi modo al Parlamento di dedicarsi alla legge di stabilità. Questo per quanto riguarda i tempi, ma la manovra potrebbe essere anche il contenitore dove convogliare quelle misure sociali oggetto di mediazione e compromesso proprio con la minoranza del Partito Democratico. Parliamo non del reddito di cittadinanza nella forma immaginata dai 5 Stelle, ma di quell'insieme di misure contro la povertà, il cambio di passo annunciato dal ministro del lavoro Poletti, che ha parlato di interventi seri, strutturati e sostenibili, non solo dunque un sostegno al reddito, ma misure concrete, servizi alle famiglie per ridurre il disagio. La prossima legge di stabilità sarà comunque l'occasione per rimettere ordine nel sistema fiscale, negli ambiti rimasti esclusi dalla delega. È il caso delle partite IVA e poi gli agricoltori con i tagli di IMU ed IRAP, l'addio della TASI e dell'IMU sull'abitazione principale. Quindi l'ambizione del governo di unificare le scadenze fiscali in un'unica data, da risolvere infine il caso Esodati, mentre ci sarà tempo per definire la nuova digital tax che punta a far pagare i giganti del web. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Oggi intanto l'OCSE ha fornito le sue previsioni sull'economia mondiale e naturalmente ci sono anche quelle sull'Italia. Sull'Italia l'OCSE resta prudente, così mentre alza le stime di crescita per quest'anno, le abbassa per il 2016. Nel 2015 il PIL salirà dello 0,7%, cifra in linea a quanto indicato dal governo prima che Renzi lunedì aumentasse la posta più 0,9%. Per il 2016 atteso invece un più 1,3%. Ma se il nostro paese tentenna, l'Europa non ride. L'eurozona sta migliorando, dice l'organizzazione parigina, ma meno velocemente delle attese. Anche la crescita globale nel 2015 resta sotto la media, con numeri rivisti al ribasso. La ripresa sta facendo progressi nelle economie avanzate. Lo scenario è peggiorato invece in quelle emergenti, spiega la capo economista Catherine Mann. Il rischio maggiore è il rallentamento della Cina, se associato a turbolenze sui mercati finanziari, ampliati dal possibile primo aumento dei tassi americani, potrebbe avere gravi ripercussioni sull'economia globale. Per quanto riguarda gli altri paesi, ripresa ancora solida negli States, Brasile e Russia in profonda recessione, Giappone erratico, così lo definisce l'OCSE. Proprio oggi Standard & Poor's ha tagliato il rating da AA- ad A+. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sui temi dell'andamento dell'economia italiana ci sono le dichiarazioni di pochi istanti fa del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, il quale dice le stime del governo di una crescita dello 0,9% nel 2015 sono dati statistici e per forza sono credibili. Poi possiamo discutere se ci basti una crescita dell'1%, parole appunto di Squinzi. Restiamo sui temi economici perché questa notte Fiat Chrysler ha firmato l'accordo col sindacato americano WAV sul nuovo contratto di lavoro. È il motivo per il quale Sergio Marchionne non è andato quest'anno al Salone di Francoforte, dove si trova invece Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore, che saluto e al quale chiedo di farci un punto tanto sull'accordo raggiunto quanto sulle novità emerse oggi dal Salone. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, l'accordo è stato raggiunto nella notte, i dettagli non sono ancora noti, ma la sostanza dovrebbe essere sul punto principale, cioè sull'abolizione dei due livelli salariali, cioè un salario relativamente elevato per i vecchi assunti e uno pari a poco più della metà per quelli assunti dopo il 2009. Questo sistema dovrebbe essere eliminato gradualmente, nel senso che verrebbe alzato il tetto per gli stipendi dei nuovi e per quanto riguarda i vecchi semplicemente verranno mantenuti i loro salari finché non andranno in pensione. Questa soluzione permette al sindacato di dire che le fasce sono state abolite e permette a FTA di non avere un impatto immediato sui conti. Sergio Marchionne quindi potrà dedicarsi ai prossimi due impegni fondamentali, cioè la quotazione di Ferrari che dovrebbe arrivare in borsa, che dovrebbe arrivare entro la fine del mese prossimo, e soprattutto la ricerca di una fusione con General Motors, che il manager di Fiat Chrysler ha chiesto più volte. I vertici di GM non ci sentono, ma ricordiamo che proprio quel sindacato con cui Marchionne ha firmato l'accordo stanotte è il maggior azionista di General Motors. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Grazie ad Andrea Malan in diretta da Francoforte. La cronaca, Milano, il giorno del faccia a faccia in aula tra il ragazzo sfigurato dall'acido e uno dei suoi aggressori. Un cappellino da baseball in testa, un viso che porta le tracce di quella sofferenza che dalla notte tra il primo e il 2 novembre scorso lo ha costretto a 15 interventi chirurgici. Stefano Savi, 25 anni, come aveva promesso, si è presentato oggi in tribunale al processo a carico di Alexander Böcher, amante di Martina Levato, la coppia diabolica che gli ha devastato la vita per un errore di persona. «Voglio che tutti si rendano conto di quello che mi hanno fatto», aveva detto Stefano, e ha mantenuto la parola. Uscendo dall'aula ha anche guardato il broker chiuso dentro la gabbia mentre gli passava molto vicino, occhi negli occhi, quelli di Savi rabbiosi, quelli di Böcher assenti, come dal giorno dell'arresto. A gettare l'acido sul viso di Stefano è stata Martina. Böcher era lì ad aiutarla. Savi, è stato ribadito in aula, è stato vittima di un errore di persona solo perché somigliava fortemente al fotografo che in seguito fu anche lui aggredito, ma si difese con l'ombrello aperto. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono riprese questa mattina le ricerche della persona ancora dispersa dopo l'alluvione nel Piacentino, mentre l'emergenza in Valnure a 3 giorni da questa alluvione non è ancora terminata. La situazione più grave a Farini, dove sono crollati alcuni edifici in via Roma e altri sono ancora inagibili, compresa la chiesa e il municipio. È tornata l'elettricità ma non ancora completamente il gas e l'acqua dei rubinetti deve essere bollita. Cambiamo decisamente argomento e passiamo alla pagina sportiva, innanzitutto dandovi una notizia di questa mattina, in parte attesa, è ufficiale: Roma, Budapest, Amburgo, Parigi e Los Angeles sono le 5 città candidate ad ospitare le Olimpiadi del 2024, lo ha annunciato il Comitato Olimpico Internazionale. Anche su questo torneremo per tornare a cercare di capire che possibilità abbia la capitale italiana di aggiudicarsi le Olimpiadi del 2024, ma intanto veniamo a quello che è successo tra ieri sera e quello che succederà questa sera, una serata che si prospetta interessante sia calcisticamente che dal punto di vista del basket. Carlo Genta. Sì Simone, grande serata quella che stiamo aspettando, come una grande serata quella che abbiamo vissuto ieri sera in fondo, perché la Juventus in grandi difficoltà in campionato, Juventus fischiata dai tifosi, al centro della contestazione, è andata a vincere la partita più simbolica di questo inizio di stagione sul campo del Manchester City, primo a punteggio pieno in Inghilterra. Sembrava davvero la gara impossibile per questa Juventus, che invece si è stretta intorno ai suoi fuoriclasse, a cominciare da Buffon che ha fatto una partita straordinaria, per poi andare su Mandzukic e Morata che hanno segnato i gol di questo 2-1 con il quale la Juventus ha aperto la sua Champions League. Morata si conferma l'uomo dei gol decisivi, tra l'altro bellissimo, quello appunto della vittoria bianconera. Questa sera tocca alla Roma contro un'altra grandissima, enorme avversaria, la più forte, cioè i campioni d'Europa della Barcellona. Si gioca all'Olimpico, stavo leggendo tra l'altro ora che Totti, che non sarà in campo dall'inizio, comparirà invece sui biglietti del bus della capitale per festeggiare il suo 39esimo compleanno, che è il 27 di settembre, e onore concesso fino adesso solo ad un altro Francesco, cioè il Papa. Al di là di questo, stasera Roma-Barcellona, ma anche, come dicevi tu prima, c'è l'Italia del basket che continua il suo cammino europeo. Alle 21 si gioca contro la Lituania, obiettivo andare in semifinale, cosa che darebbe ovviamente un altro colore completamente diverso, comunque a un grande europeo fin qui degli azzurri. Vedremo cosa succederà stasera sia dalle parti della Roma che dalle parti dell'Italbasket. Intanto grazie al nostro Carlo Genta, ci fermiamo per un attimo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi nei nostri titoli avete sentito, c'è il rapporto dell'autorità anticorruzione su Roma, si parla di Porto Franco degli appalti con l'87% assegnato senza gara pubblica. Ne parleremo proprio col presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra un attimo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Chiusi i confini ungheresi, dove questa mattina ci sono stati scontri, li ha aperti la Croazia, i rifugiati potranno passare di là. E intanto parla il presidente siriano Bashar al-Assad: non risolverete il problema dei profughi finché armerete i terroristi, dice all'Occidente. L'OCSE migliora le previsioni sull'Italia, crescerà dello 0,7%, il presidente del Consiglio aveva parlato di un più 0,9%. Serata tra pallacanestro e calcio, l'Italbasket in campo contro la Lituania e la Roma contro il Barcellona. Ve lo avevamo già, ve ne avevamo già parlato nei titoli, oggi è stata anticipata dal Corriere della Sera la relazione che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha consegnato al sindaco di Roma Ignazio Marino e al prefetto Gabrielli sulla situazione degli appalti nella capitale, e ne emerge un quadro molto duro. Saluto Raffaele Cantone, che è presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, bentornato ai nostri microfoni, Cantone. Buongiorno a lei. Addirittura un Porto Franco degli appalti, Roma? Forse è una frase eccessiva. Certo, ci sono state un periodo di grandi criticità attraverso un eccessivo utilizzo delle procedure negoziate, che sono procedure poco trasparenti. Procedure negoziate che sono state avviate in maniera potente da Gianni Alemano. Lo chiariamo per gli ascoltatori: quando parliamo di procedure negoziate sostanzialmente parliamo di un affidamento diretto, o comunque il passaggio non da una gara ad evidenza pubblica, fatto che evidentemente consente maggiori abusi, semplicemente perché se ne sa di meno, c'è minore trasparenza. Un sistema che è esploso sotto il sindaco Alemano e che però di fatto Marino, nella prima fase della sua amministrazione, non ha corretto, non è riuscito a correggere. I numeri dicono questo. Sostanzialmente c'è stata una significativa riduzione del quantitativo economico di appalti che sono stati assegnati con procedura negoziata dalla sindacatura attuale, ma diciamo in termini percentuali sono rimaste molto alte le procedure negoziate, quindi c'è stato un budget minore messo a disposizione degli appalti, ma nell'ambito di quel budget fino al 2014, quando si ferma la nostra attività ispettiva, c'è stato un significativo utilizzo delle procedure negoziate molto elevato e molto alto. Quando poi esplode lo scandalo e quindi sostanzialmente si ferma tutto, evidentemente anche dal lato degli appalti. Mi spiega una cosa, Cantone, ma com'è possibile che tecnicamente una città come Roma aggiudichi con procedura negoziata, appunto con affidamento diretto, una quantità così enorme di appalti e quindi distribuisca una così enorme quantità di denaro? Ma perché il numero degli appalti che vengono fatti in questa città è un numero stratosferico, molti appalti sono significativamente dal punto di vista economico poco significativi, ci sono una serie di settori che sono i settori sociali, in cui spesso si lavora attraverso il regime di proroga, attraverso il regime degli affidamenti in urgenza, e questo in parte riesce a spiegare questi numeri che, devo dire, in base anche a nostre evidenze che vengono da altri comuni, non è che sono poi così dissimili in altre realtà. La verità è che l'utilizzo delle procedure negoziate sta diventando un po' una prassi generalizzata, che nel caso di specie era diventata ancora più elevata, ma le nostre evidenze hanno dimostrato che anche in altre realtà c'è un utilizzo della procedura negoziata. Su questo va detto con chiarezza: le procedure negoziate non significano corruzione, tutt'altro, ma significano sicuramente scarsa trasparenza. Si potrebbe ideare un metodo, appunto, per cui si abbia una maggiore trasparenza anche da questo lato, anche dal lato delle procedure negoziate? Ma guardi, queste sono anche scelte dell'amministrazione. L'idea di dover sempre intervenire con le regole. Oggi, per esempio, l'amministrazione sta mettendo in campo un nuovo regolamento sugli appalti che prevede meccanismi anche molto più garantiti. Io credo che non si possa sempre parlare di legge. Queste sono anche responsabilità e scelte delle amministrazioni. Nella volontà di utilizzare procedure sotto questo profilo più chiare e anche più trasparenti, perché se tu, diciamo, utilizzi il meccanismo dello spacchettamento degli appalti, sto parlando in generale, chiaro che puoi ottenere il risultato di poter fare due appalti al di sotto della soglia piuttosto che un unico appalto. Quindi ci sono regole anche di correttezza amministrativa nelle quali c'è una necessità di una grande attenzione da parte degli organismi pubblici. Quindi è un problema di regole, ma soprattutto di regole interne da parte degli enti. L'ultima domanda che le voglio fare, perché so che ha veramente pochissimo tempo, avete, non dico analisi a questo punto perché vi fermate al 2014 come ci diceva con questo rapporto, ma vi siete fatti l'idea che dal momento nel quale sono partite le inchieste le cose siano cambiate nella capitale, visto che adesso ci avviciniamo al giubileo, insomma, e quindi qualche preoccupazione da questo lato c'è? Noi ovviamente, tenga conto che per gli appalti del giubileo c'è una procedura diversa, anche molto molto garantita. Ovviamente noi abbiamo chiesto a questo punto un approfondimento anche ai nostri uffici ispettivi per verificare come gli interventi anche normativi messi in campo dall'amministrazione comunale siano in grado di sterilizzare il problema. Noi avremo da qui a un po' un confronto, abbiamo chiesto un confronto con l'amministrazione Marino proprio per capire se le attività messe in campo sono in grado di sterilizzare i problemi che abbiamo evidenziato. Del resto la relazione noi la mandiamo al sindaco Marino proprio per questo, per segnalare un problema e per provare a trovare una soluzione. Grazie. Grazie a Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per essere stato con noi e per averci dedicato del tempo. Torniamo al tema dei profughi e ci spostiamo in uno dei luoghi che da settimane è nevralgico per l'arrivo e lo smistamento dei profughi, la stazione di Monaco di Baviera, dove questa mattina è stata l'inviata del Sole 24 Ore a Monaco, Roberta Miraglia. Buongiorno Roberta e benvenuta. Buongiorno. Allora, abbiamo raccontato lunedì che solo nel fine settimana erano arrivati 20.000 profughi a Monaco, di lì forse anche la decisione di Angela Merkel di sospendere temporaneamente Schengen. Che situazione hai trovato tu? La situazione è nettamente migliorata. Le cifre sono quelle che sono state appunto riferite, perché ai 20.000 del weekend scorso vanno aggiunti 30-40.000 del precedente. Si dice che siano arrivati forse nel giro di qualche settimana 60-70.000 profughi o migranti richiedenti asilo a Monaco, ma sono transitati soprattutto. Adesso la situazione alla stazione è molto tranquilla, certo ci sono ancora dei gruppi di profughi, di persone che provengono dall'Iraq, dalla Siria, ne ho incontrati alcuni, che fanno dei biglietti aiutati da interpreti in maniera molto ordinata e molto discreta, fanno dei biglietti per muoversi in altre parti della Germania perché hanno avuto come dire, una prima registrazione, hanno un braccialetto giallo al polso, significa che si sono registrate, hanno avuto il permesso di raggiungere familiari che si trovano in altre città della Germania, e questa è la parte minore, sì. Mentre la gran parte è stata convogliata su treni speciali che sono partiti di giorno in giorno e hanno raggiunto un po' tutte le città della Germania e soprattutto il land del Nord Reno-Vestfalia, che mi hanno detto si è reso disponibile, al di là della chiave di distribuzione che è quella che abbiamo letto in questi giorni, cioè della distribuzione in base alla popolazione, in base ad una serie di criteri, bene, si sono resi disponibili invece nel Nord Reno-Vestfalia ad accoglierne 1.000 al giorno in tutti questi giorni che sono passati dal primo massiccio arrivo. Sì, tra l'altro ricordo che notizia di stamattina è che sono stati nuovamente siete fermati i treni che da Salisburgo e quindi dall'Austria arrivano verso la Germania, quindi c'è un nuovo blocco in questo momento. Brevemente, Roberta, parlavi di una nuova distribuzione stabilita dalla Merkel, o quantomeno di un'apertura di dialogo con le regioni tedesche per capire come distribuire i profughi. Sì, ecco, è una notizia di ieri, c'è stato un incontro con i rappresentanti, con i premier dei Land, dei 16 stati, e adesso al Consiglio dei rifugiati della Baviera mi spiegavano che è una ONG molto, che è molto attiva da settimane, da mesi, su questo terreno. Bene, mi spiegavano che potrebbe essere rivista, nel senso che non è più molto significativo decidere la ripartizione in base soltanto al PIL e alla popolazione, perché così sono i land ovviamente più popolosi a prendere più rifugiati, mentre ci sono delle ampie zone del paese che sono meno abitate e quindi arrivano meno profughi, ma potrebbero essere invece ospitati meglio, e quindi si sta lavorando su un discorso del genere. Grazie. Su cambiare la chiave di distribuzione. Grazie a Roberta Miraglia anche per questi chiarimenti. E noi torniamo tra il tema dei profughi e quello della Siria. In realtà si riferiva dell'intervista al presidente siriano Bashar al-Assad da parte di una TV russa, nel quale dice: non risolverete il problema finché non la smetterete di armare i terroristi, ma nel frattempo ripartono le azioni militari, comunque sempre dall'aria. Oggi raid australiani, nelle prossime settimane quelli francesi. Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma, bentornato ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori sintonizzati. Abbiamo poco tempo, le chiedo brutalmente come se ne esce. Ma sicuramente non se ne esce con queste operazioni cosmetiche condotte contro il sedicente Stato Islamico, che non credo abbiano neanche in questo caso l'obiettivo di sradicare questa formazione. Il problema è che occorre fare ciò che non si può dire, cioè in realtà favorire il consolidamento delle posizioni di Assad, che invece da qualche mese è in crisi. D'altra parte, i migranti che stanno arrivando in Turchia e che la Turchia lascia passare o espelle sono in realtà appartenenti proprio a quella parte della popolazione siriana che al momento sta perdendo la guerra civile. In breve, dottore, in sostanza bisognerebbe favorire Assad. O quantomeno impedirne il crollo, come sta facendo la Russia. E le sembra possibile che l'Occidente percorra questa strada? Credo che di fatto lo stia già facendo, ma diciamo in forme coperte che non possono essere rese di pubblico dominio. La ringrazio, grazie a Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli, che ci ha dato anche un'informazione importante. Noi ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo, torniamo a parlare di appalti a Roma e poi parliamo anche di Roma, perché insomma c'è questa corsa per le Olimpiadi del 2024, tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata su quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Chiusi i confini ungheresi, ci sono stati scontri, però li ha aperti la Croazia, i rifugiati potranno passare di là. Ha parlato Assad: non risolverete il problema dei profughi finché armerete i terroristi in Siria, dice all'Occidente. Roma, porto franco degli appalti, scrive l'autorità anticorruzione nella sua relazione sulla capitale, l'87% assegnato senza gara pubblica. L'OCSE migliora le previsioni sull'Italia, crescerà dello 0,7%, la previsione di Renzi era per un più 0,9%. La borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata su quello che succede in Italia e nel mondo. E tra le cose che sono successe questa mattina c'è sicuramente la decisione finale del CIO su quelle che sono le 5 città candidate ad ospitare le Olimpiadi del 2024. C'è Roma e lo sapevamo, così come sapevamo le altre che ci sono: Budapest, Amburgo, Parigi e Los Angeles. In sostanza una conferma. Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Che speranze ha la capitale? Siamo in rimonta, almeno i bookmakers hanno tagliato la quota di Roma, il che vuol dire che vedono queste possibilità un aumento. La grande favorita al momento è Parigi per vari motivi, perché il 2024 ricorre il centenario dalla prima edizione di giochi ospitata da Parigi nel 1924 e anche perché la disillusione subita dai parigini per quell'edizione 2012 che venne assegnata a Londra proprio al photo finish è ancora forte, quindi sono tutte queste serie di ragioni che portano Parigi in pole position in questo istante. Ma Roma sembra rimonta, dicevamo, perché anche perché è stata importante la firma che è arrivata nei giorni scorsi di quel protocollo tra CONI e Comune di Roma, che in qualche modo ha sciolto il nodo del villaggio olimpico. Il villaggio olimpico sarà a Tor Vergata che sarà raggiunta dalla metropolitana, questo sulla carta chiaramente, lo speriamo pure nei fatti, così come voleva il CONI, e in cambio il Comune avrà in quello che Marino, la Giunta, aveva ipotizzato essere il cuore dell'Olimpiadi, cioè la zona fuori italico, Roma Nord, un grande parco fluviale, insomma un grande polmone verde anche nella zona nord della città. Ha ricevuto anche il via libera degli ambientalisti, che sappiamo di solito chiaramente, giustamente, molto critici rispetto a progetti di questo tipo. Quindi, sciolti quei nodi, il percorso può cominciare. La meta è il settembre 2017, congresso del CIO a Lima, in Perù, quando si aprirà quella busta e con l'assegnazione. E sapremo che cosa succederà. E brevemente, Dario, mi parlavi anche di un protocollo firmato dal CIO? Sì, praticamente tema che ci accompagna già da mesi, i costi delle Olimpiadi sempre più mastodontici, sempre meno sopportabili. Bene, il CIO sta provando a porre rimedio con questa agenda 2020 che stabilisce le linee guida di quelle che saranno le prossime Olimpiadi, cioè evitare di costruire impianti che poi non verrebbero riutilizzati, sedi decentrate rispetto alla città principale, in modo tale che anche in non sia un'unica città, per quanto grande, a sopportare anche tutto il peso organizzativo, e via dicendo. Quindi ciò ci sta provando. Comunque le Olimpiadi generano anche tanto indotto e ricevono tantissimi milioni di euro dalle TV, quindi insomma vuol dire che il prodotto c'è. Vedremo cosa succederà. Intanto, grazie al nostro Dario Ricci, noi restiamo nella capitale. Abbiamo già parlato prima, piuttosto in generale, di questa relazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sugli appalti a Roma, nella quale si parla di Porto Franco degli appalti e l'87% assegnato senza gara pubblica. Una notizia data oggi in anteprima dal Corriere della Sera. Saluto il collega che ha firmato il servizio, che è Giovanni Bianconi. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo parlato poco fa anche col presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, quindi Giovanni, il lato istituzionale ce l'abbiamo avuto, per così dire, e anche un quadro di questa relazione. Quello che vorrei capire da te, quello che, su cui ti chiederei di aiutarci, è di leggere un po' tra le righe di questa relazione, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'ultimo anno e mezzo, perché dal punto di vista percentuale, anche se non dal punto di vista quantitativo, in termini economici, la quantità di affidamenti diretti fatta dalla Giunta Marino è enorme. L'87% degli appalti sono stati fatti con affidamenti diretti, con, insomma, senza gare ad evidenza pubblica. L'impressione, mi sembra, Giovanni, anche da quello che scrivi, è che semplicemente il sindaco non si sia accorto del sistema che gli girava intorno. No, questo è un aspetto. L'altro aspetto che spiega la cifra così alta di affidamenti a procedura negoziata anziché a gara pubblica sta nel fatto che quando è arrivato Marino Roma non aveva il bilancio, era in deficit, era vicino al default, non aveva il bilancio e quindi non aveva soldi da spendere per fare gare ad evidenza pubblica. Quindi non c'erano proprio i soldi materiali, tant'è che quella cifra quell'87% è quasi meno di quel 34% che invece con la giunta Alemanna era stato assegnato attraverso le procedure negoziali. Quindi è un problema anche tecnico che gli stessi ispettori dell'autorità anticorruzione ricordano nella loro relazione. Il problema è che non si è accorto perché non c'era un sistema, e lui stesso, probabilmente la stessa sua giunta, la sua amministrazione, non ha contribuito a fare un sistema che garantisse i controlli sugli appalti affidati a negoziazione, a procedura negoziale, cioè a trattativa privata. Questo è il cuore del problema denunciato all'anticorruzione. Cioè dietro questi appalti si celano spesso accordi corruttivi o comunque sistemi di malaffare, perché non ci sono controlli e perché vengono affidati senza il rispetto delle norme, che sono tantissime, sono complicate da rispettare, ma bisognerebbe rispettarle. Ti sembra, Giovanni, che quello che è scattato dopo l'apertura dell'inchiesta su Mafia Capitale abbia sbloccato qualcosa da questo punto di vista? Cioè i sistemi messi in campo possano funzionare? Ma io intanto da cittadino romano mi auguro di sì, dopodiché qualcosa sicuramente si è fatto. Se il prefetto nelle scorse settimane, quando si è incontrato con Marino dopo il Consiglio dei Ministri, che ha in qualche modo messo sotto tutela l'amministrazione di Roma, ha detto che già dal gennaio scorso, con la nomina dell'assessore Sabella e con una serie di cambiamenti che sono stati avviati, si è portato avanti col lavoro, diciamo così, evidentemente qualche cosa è stato fatto, anche perché l'inchiesta di Mafia Capitale ha svelato le ragioni che c'erano dietro tutti questi appalti ad assegnazione diretta, fatti prima con Alemanno e poi prorogati da Marino, perché poi Marino in molte occasioni ha dovuto prorogare proprio per quel discorso che faceva, che non c'erano i soldi del nuovo bilancio, no? E quindi per assicurare i servizi. Dietro queste cose c'era un sistema corruttivo, almeno in parte svelato da Mafia Capitale, quindi quello ha fatto scattare l'allarme e ha fatto prendere alcune contromisure. Vedremo se saranno adeguate. Grazie a Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Traffico.